Pace e gioia a tutti. Il libro dei Salmi è stato pregato anche da Gesù. Questo breve corso audio vuole essere un aiuto a quanti vogliono partire dalla preghiera dei Salmi e tentare un'esplorazione di essi per farne concreta esperienza di vita spirituale. Leggerò testi di biblisti del mondo cattolico e del mondo protestante, nonché di quello ortodosso. Don Divo Barsotti, un monaco, nato nel 1914 in provincia di Pistoia, sacerdote, docente di teologia presso il seminario di Firenze, biblista, fondatore della comunità dei figli di Dio. Morto il 15 febbraio 2006, nella sua stanza a casa San Sergio, il piccolo eremo che dal 1955 a Settignano sulle colline di Firenze accoglie la comunità da lui fondata che si chiama Comunità dei Figli di Dio. Ebbi modo di conoscere Don Divo Barsotti parecchi anni fa e con gioia presto la mia voce alla sua riflessione introduttiva a tutte le letture dei Salmi che verranno proposte in questo corso, intitolata La lotta, il giudizio, la lode. Il contenuto dei Salmi, dice Don Divo Barsotti, è la storia dell'uomo e del mondo come dramma, come guerra del male contro il bene. Ma vi è una soluzione a questo dramma che non è nella storia, è il giudizio di Dio. Come Dio non ha bisogno di vincere, così non ha bisogno di accusare e di condannare, basta che egli si manifesti. Tutti i salmi attendono questa rivelazione di Dio che per sé necessariamente sgomina il male e lo distrugge. Tutto tende verso la teofania, la manifestazione di una sovrana potenza che agisce facendosi semplicemente presente. Dio solo è, egli solo rimane. Se egli si rivela, se egli si manifesta, tutto quello che non è lui cade. La sua azione è infinitamente potente. È come il sole che dissipa la nebbia, la consuma. E di fatto tutta la realtà, in quanto si oppone a Dio, non può essere che nebbia, più irrealtà che realtà, menzogna e vanità che la realtà infinitamente potente dell'essere divino rivela precisamente come nulla. Il dramma della storia attende il giudizio, quel giudizio che non può distruggere i poveri, i perseguitati, gli innocenti, perché essi sono dalla parte di Dio. Essi non possono temere il giudizio, anzi, hanno parte con Dio alla sua vittoria. Al termine, la lode divina. Lo svolgimento del dramma, così, implica tre atti. Primo atto, la guerra nella quale sembra sia dato ogni potere al male. Secondo atto, il giudizio che manifesta la vanità, il nulla del male nella presenza dell'eterna realtà divina. Il giudizio, d'altra parte, suppone anche la salvezza di coloro che si sono messi con Dio, che hanno confidato nel Signore e si sono abbandonati a Lui. Terzo atto, da questa umanità redenta, da questa creazione che il giudizio divino non ha distrutto, ma piuttosto, in qualche modo, fatto sussistere in Dio, il canto della lode che è la vita celeste. Una divisione dei salmi nei loro generi letterari può avere un valore, può essere perfino necessaria per un'esegesi letterale, ma è ben poco per rivelarci il senso ultimo dei salmi. Certo, ci sono inni e ci sono suppliche, ci sono i salmi della regalità e ci sono i salmi della città santa di Gerusalemme, ci sono i salmi del pellegrinaggio e vi sono epitalami, ma i generi letterari dei salmi non possono essere un criterio alla interpretazione del Salterio nella sua unità. Se prendo un salmo, togliendolo dal suo contesto, posso sì e debbo anche riconoscere il genere letterario al quale appartiene, ma il salmo stesso non mi dice tutto il suo segreto che in un rapporto con i salmi che lo precedono e lo seguono, secondo quell'ordine che non può derivare da un'arbitraria armonia, ma che deriva dal posto che occupa nel libro. Posto che non è voluto dall'uomo, ma è voluto da Dio che ha ispirato l'agiografo nel raccogliere questi carmi, queste composizioni poetiche per la formazione del libro. Più precisamente, Il riconoscimento della ispirazione del Salterio è praticamente il riconoscimento della sua unità. Solo nell'unità della Bibbia l'esegesi cattolica trascende la parola dell'uomo e raggiunge attraverso di essa la parola di Dio. Dimenticare che tutta la Bibbia ha Dio come unico autore principale è compromettere la sua autentica interpretazione. Il filologo può ben interpretare la parola di un documento umano di storia o di poesia. Il filologo, come tale, non potrà mai scoprire Dio, ma solo il credente, attraverso i singoli documenti, raggiunge nell'unità della Bibbia Dio nell'unità della sua parola. Quello che è vero per l'interpretazione di tutta la Bibbia, tanto più si manifesta nell'interpretazione del Salterio. Ogni salmo è ispirato, tuttavia non rivela fino in fondo il suo senso che nell'unità del Salterio. Togliere dal Salterio ogni salmo, considerarlo da solo a solo, direttamente con i salmi che appartengono al suo stesso genere letterario, escludendo il rapporto che ha nell'unità del Salterio, è far violenza alla parola di Dio. Del resto, anche la parola di un poeta non è interpretabile che nell'unità di tutta l'opera sua, e frequentemente una poesia svela tutto il suo senso solo nell'unità di una vita cui pose il sigillo la morte. Proprio per questo è la vita ed è soprattutto la morte di Cristo, parola di Dio incarnata, il vero e ultimo senso delle scritture. Proprio per questo il Salterio medesimo riceve la sua interpretazione autentica sulle labbra del Salvatore. Ma prima ancora, i singoli salmi ricevono la loro interpretazione autentica quale parola di Dio nell'unità di quella raccolta che Dio stesso ispirò e consegnò prima alla sinagoga e quindi alla Chiesa. I salmi hanno una loro unità nel Salterio. Ci rivelano il loro segreto proprio nell'unità che essi hanno acquistato nell'opera ispirata. Il Salterio, secondo il canone ebraico, si divide in 5 libri che corrispondono ai 5 libri della Torah. Noi dobbiamo vedere quali sono questi libri e dobbiamo vedere che cosa voglia dire questa divisione. Il Salterio nel canone cristiano della Bibbia appare ancora diviso nei suoi libri, ma se la Bibbia porta questa divisione, in generale, non vi si dà troppa importanza. Dobbiamo allora attenerci a quella divisione? E in che cosa consiste? Oppure dobbiamo attenerci a qualche altra divisione? Come per il libro dei Proverbi, noi potremmo attenerci anche ad altri criteri. Si potrebbe dividere secondo le raccolte che hanno costituito l'opera definitiva. La divisione dei Salmi potrebbe farsi seguendo questo criterio, cercando cioè di individuare le singole raccolte che hanno dato luogo alla raccolta definitiva. Secondo la Bibbia di Gerusalemme, sarebbero 3 queste raccolte. La prima va fino al Salmo 41, e questa prima raccolta si identifica anche con il primo libro della Bibbia ebraica. Quello che caratterizza questa prima serie è che è formata dai Salmi davidici. Non che tutti siano o debbano pensarsi composti da David, comunque sarebbero stati tramandati, già nell'ebraismo antico, sotto il nome di David. A questa raccolta segue, secondo la Bibbia di Gerusalemme, una seconda, che va fino al Salmo 90, non compreso, ed è una raccolta piuttosto composita. Si deve all'ambiente sacerdotale, ed è opera di sacerdoti e di cantori. Tra questi salmi ci sono, tuttavia, anche composizioni attribuite ad altri autori che non erano sacerdoti e non attendevano alla liturgia, ma furono inserite in questa raccolta precisamente perché, pur essendo fondamentalmente una raccolta di composizioni liturgiche, essa ha tuttavia riunito tutte le composizioni ispirate che avevano per tradizione il nome di un presunto autore. Così tra questi salmi vi è un salmo attribuito a Salomone e un altro salmo attribuito a Mosè, che è precisamente l'ultimo di questa raccolta. Poi vi è l'ultima raccolta, dal Salmo 90 al 150, che non porta il nome degli autori dei Salmi. L'ultima raccolta in generale è senza nome d'autore, anche se alcuni pochi Salmi sono attribuiti a David. Sarebbero quelli che non erano entrati nella prima serie. Come per la Torah, ci si potrebbe poi attenere al criterio dell'uso del nome, con la N maiuscola, e distinguere i Salmi che danno a Dio il nome di Yahweh da quelli che gli danno il nome di Elohim, ed è questa una divisione che risponde ai criteri degli esegeti di oggi. È vero, nei primi salmi Dio viene chiamato Yahweh negli ultimi Dio si chiama Elohim e si chiama ugualmente anche Yahweh. La divisione non è netta. Queste divisioni non ci danno modo di penetrare nell'unità del Salterio. Se Dio ha voluto raccogliere i Salmi in un libro solo, i Salmi hanno avuto un certo ordine che è voluto da Dio. Da questo ordine, di fatto, deriva l'unità del Salterio. Riteniamo che sia più esatto dividere i Salmi in 5 libri, secondo la tradizione ebraica, perché gli altri criteri di divisione dipendono da una ricerca filologica o storica o letteraria, che non tiene conto dell'ispirazione divina. L'ispirazione, certo, riguarda le singole parti di un libro, ma tanto più riguarda il libro intero. Dobbiamo mantenere fermo questo principio che anche il libro, come tale, nella sua unità, è ispirato. Dio ha ugualmente ispirato coloro che hanno composto i singoli carmi e l'agiografo che li ha raccolti, così da dare all'opera un'unità. L'unità del Salterio può anche non apparire. La composizione di un libro nella tradizione ebraica non obbedisce certo ai criteri cui obbedisce la composizione di un libro nella tradizione classica. Tuttavia, anche nell'ebraismo risponde a un fine preciso, pure se meno evidente. L'ordine del Salterio già la esprime sufficientemente. L'inizio e la fine di esso non sono fortuiti né casuali. Il Salterio s'apre con il proporre due vie, la via dell'empio e la via del giusto, ma termina nell'unica lode che sale a Dio da tutto il creato. Non la lode di un uomo, di un popolo, ma la lode che sale a Dio da tutta quanta la creazione rinnovata, da tutta quanta l'umanità redenta. Grosso modo, già questo accenno rivela l'unità di un disegno. Dobbiamo tuttavia considerarlo più attentamente, perché il valore dei Salmi nel loro insegnamento deriva necessariamente da questa unità. Per parte mia, devo dire che ho capito ben poco dei Salmi finché non ho letto l'introduzione di Kurachi al Salterio. In nessun commento, forse, si è stati fedeli e rispettosi dell'ordine che Dio aveva dato a questi canti. Si sono strappati dal loro contesto per ristabilirli in un ordine e in un'armonia stabiliti arbitrariamente dagli uomini e non dalla mente di Dio. L'esegesi vera per un credente, il quale vuole rispettare l'ispirazione, non può esimersi dall'umile dipendenza dal testo. Non possiamo trasformare le cose per far loro dire quello che vogliamo. Lo scienziato, quanto più dipenderà umilmente dalle cose, tanto più sarà nel vero. E così l'esegeta dipende dal libro quale la Chiesa glielo consegna. La teologia del Salterio è in gran parte stabilita dall'ordine stesso che hanno i Salmi, nell'unità stessa dell'opera. Si può dire che l'unità del Salterio è l'unità di un dramma che si svolge attraverso i tre atti fondamentali che abbiamo determinato sopra. La guerra, i metodi di guerra, chi è che combatte, chi è che è oppresso, chi è che sembra essere vinto, quali sono le armi del male, quali sono le armi e i metodi del bene. Il giusto sembra che debba essere sconfitto. Al contrario, il secondo atto è il giudizio di Dio, e nel giudizio di Dio l'annullamento del male. Colui che era povero e disprezzato è l'amico di Dio. Il giusto si era fidato di Dio e in Dio ora è salvato e sussiste. Il terzo atto è la lode, la vita del regno messianico, la vita del mondo di Dio. Ma la lode divina è al termine del cammino, è la fine del dramma. Prima della lode in cui si realizza l'unità del creato con Dio, il Salterio ci fa assistere all'azione del male, del peccato, della morte, che in una rovina universale sembra rendere vano il disegno di Dio. All'inizio, Dio è come assente dalla scena del mondo, in cui sembra trionfare solo la potenza del male. Il primo atto di quel dramma è in questa visione paurosa. La preghiera viva, umile di coloro che sembrano essere abbandonati alla forza del male, introduce misteriosamente, ma realmente, Dio nel cuore dell'azione, e la presenza di Dio provoca il giudizio. Il male è vinto, Dio regna, il povero, il giusto, colui che ha invocato il Signore, ora non hanno più che da riconoscere la potenza vincitrice di Dio nella lode. Sono i tre atti fondamentali attraverso i quali il Salterio non solo vede il disegno divino di una storia del mondo, ma ci fa partecipare attivamente a questa medesima storia. Noi occidentali siamo troppo logici. La vita non procede in un cammino continuo. Il suo è un cammino complesso, non è mai semplice. Così, per arrivare ad essere uomini, bisogna passare attraverso le crisi della pubertà e della giovinezza. Anche la vita spirituale, nel suo cammino, sembra passare attraverso delle involuzioni. Anche nella preghiera, dal fervore si passa all'aridità. Diveniamo aridi come una pietra, secchi come un legno secco. Non si riesce più a dir nulla, non si riesce più a pensare. Siamo dunque perduti? Probabilmente, al contrario, andiamo avanti. Ed è così che si va avanti. In ogni vera crescita passiamo attraverso numerose crisi, perché la nostra vita interiore, la nostra stessa preghiera, si possa approfondire, si purifichi, divenga meno legata al sensibile e più spirituale. È questo cammino che descrive il libro dei Salmi. Fin dall'inizio questi carmi ci parlano di un giudizio divino. Fin dall'inizio l'anima è invitata alla lode divina, e tuttavia, all'inizio, grava soprattutto il potere dell'impietà. Sembra essere dato al male ogni potere. Il povero, l'umile, che confida in Dio, è solo. Come abbandonato? Le malattie lo torturano, le incomprensioni degli amici, i tradimenti, gli fanno sentire il peso della sua solitudine. La lontananza di Dio grava sopra di lui. La preghiera è un grido di angoscia, è un lamento senza fine. Contro all'innocente, al povero che prega, il mondo è coalizzato per opprimerlo e distruggerlo. Tutto il potere del mondo è in mano dell'empio, contro di lui. Questo esprimono in modo particolarissimo i primi 41 salmi del Salterio. È meditando questi salmi che si può capire che cos'è la vita dell'uomo che si affida a Dio. La preghiera sale dall'abisso della sofferenza e dell'angoscia, perché sono la sofferenza e l'angoscia dell'uomo che sembrano far presente Dio nel deserto del mondo. Dire i salmi non è nulla, dobbiamo viverli e per viverli bisogna conoscere questa condizione di pena. Perché i salmi siano veramente la nostra preghiera, occorre che siano la nostra parola, l'espressione cioè di un'intima vita. Dobbiamo essere questi poveri che implorano e non sembrano avere risposta. La parola dei salmi, se deve essere la nostra preghiera, deve essere anche l'espressione della nostra vita profonda come della storia degli uomini. Rimane vero che la vita spirituale, di cui i salmi ci dicono la dimensione reale, se implica il senso della povertà umana, della sofferenza, ha il suo termine nella lode di Dio. Il cammino dunque va dall'abisso della dannazione umana alla gloria luminosa di una lode divina in cui la vita spirituale trova il suo compimento. È nella lode che Dio si fa presente nell'universo e vive in noi la sua vita. Non è Dio che riceve qualcosa dall'uomo, è l'uomo che nella lode divina partecipa della vita del figlio di Dio, che è la lode del Padre. Quando tutto l'universo vivrà la lode a Dio, l'universo vivrà allora la vita del figlio. La lode di Dio è la stessa vita divina. Si loda Dio per quello che siamo, così il Verbo loda Dio per quello che è. Egli infinito, come il Padre, è infinito. Per questo lode conveniente, lode che risponde perfettamente alla perfezione del Padre, è soltanto il Figlio unigenito. Pura lode il Figlio, perché il Padre totalmente si contempla e riposa nel Figlio suo. Nella lode degli uomini e dell'universo, l'universo e gli uomini vivono nel cospetto del Padre per essere in qualche modo associati alla vita del Figlio. Ricevono la luce e rimandano la luce alla propria sorgente. Vivono la vita divina e sono come l'ostensorio di Dio. L'uomo deve esserlo già fin da ora, ma lo sarà perfettamente nel cielo. La lode divina, come si esprime nell'ultimo salmo, è di fatto la rivelazione della vita eterna, della vita di Dio che è traboccata nell'universo e non soltanto si è effusa, ma ha riempito, ha colmato tutti gli abissi. Sicché alla fine non è più che la luce. L'uomo sussiste, ma non dice che Dio. Questa vita è così bella che fa anche paura. Non rimane che Dio, ma un Dio che vive in tutti e Dio sarà il tutto in tutte le cose. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 28. Tutti sussisteremo, ma per non dire più che Lui, la sua vita. Tutti sussisteremo, ma per non dire più che Lui, la sua vita. E la sua vita è una ed è immensa. Non è più che la luce, una luce infinita. Se noi amiamo, e ci lasciamo devastare da questa luce, noi vogliamo che Dio sia. L'uomo deve veramente morire a se stesso, deve volere che il suo io venga meno per essere egli posseduto dall'amore, con la A maiuscola. Se tu ami, ti vuoi donare, non vuoi tenerti per te, ma l'amante sussiste precisamente in questo dono continuo di sé a colui che ama. Così l'uomo sussiste nell'atto stesso, onde vuole la sua morte e accetta il suo morire per essere invaso eternamente dalla luce infinita di Dio. Chi invece non ama, di fronte a questa luce ha paura, la odia, non la vuole, tuttavia non la può respingere da sé. La luce è la morte dell'uno e dell'altro, ma per l'uno è la morte gaudiosa nell'amore, per l'altro è la morte spaventosa dell'odio. Di chi respinge la luce ne è accecato, distrutto. Egli non può sottrarsi al suo morire e non vuole. Questa è la vita impossibile del dannato. Egli non può mai impedire a Dio di essere uno, di essere il solo. Così il dannato non vivrà che la sua morte, senza vivere Dio, perché non lo ama. Questa meditazione di Divo Barsotti è stata tratta dal sito www.figlididio.it.